Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. Castorp taceva. Stava ancora seduto come da principio, i piedi incrociati sotto la poltrona scricchiolante, proteso verso la donna abbandonata sulla sedia col tricorno di carta in testa, la matita di lei fra le dita, e con gli occhi azzurri di Hans Lorenz Castorp guardava di sotto in su la stanza che si era vuotata. Gli ospiti si erano dispersi. Il pianoforte nell'angolo diagonale opposto mandava ancora qualche nota sommessa e smozzicata, suonata con una mano sola dal malato di Mannheim, mentre la maestra seduta al suo fianco sfogliava un fascicolo di musica che teneva sulle ginocchia. Al cessare della conversazione fra Hans Castorp e Claudia Chauchat, il pianista smise di suonare e posò in grembo la mano con la quale aveva sfiorato i tasti. La Engelhardt continuò a scorrere la musica. Le quattro persone residue dopo la Valdoria carnevalesca stavano immobili. Il silenzio si protrasse per alcuni minuti. Sotto il suo peso le teste della coppia davanti al pianoforte si piegarono giù giù, quella del pianista sulla tastiera, quella della signorina sul fascicolo. Infine, contemporaneamente, come per tacita intesa, si alzarono tutti e due circospetti e piano, in punta di piedi, evitando apposta di voltarsi a guardare l'altro angolo della stanza, che dava ancora segno di vita, con la testa fra le spalle, le braccia rigide lungo il corpo, scomparvero insieme, passando dalla sala di lettura. «Tout le monde se retire», disse la signora Chauchat. «C'était le dernier. Il s'est fait tard. Eh bien, la fête de carnaval è fini». E alzò le braccia per togliersi il berretto di carta dai capelli rossicci, la cui treccia formava corona intorno alla testa. «Vous connaissez les conséquences, messieurs?» Ma Castorp, a occhi chiusi, fece con la testa un cenno negativo, senza cambiare posizione, e rispose: «Jamais, Claudia. Jamais, je te dirai vous. Jamais de la vie, ni de la mort. Se così si può dire, e si dovrebbe poter dire. Cette forme de s'adresser à une personne qui est celle de l'Occident cultivé et de la civilisation humanitaire me semble fort bourgeoise et pédante. Pourquoi au fond de la forme? La forme, c'est la pédanterie elle-même. Tout ce que vous avez fixé à l'égard de la morale, toi et ton compatriot souffrant, tu veux sérieusement que ça me surprenne? Pour quel sot me prends-tu? Dis donc, qu'est-ce que tu penses de moi? C'est un sujet qui ne donne pas beaucoup à penser. Tu es un petit bonhomme convenable, de bonne famille, d'une tenue appétissante, disciple docile de ses précepteurs, et qui retourna bientôt dans les plaines pour oublier complètement qu'il y a jamais parlé en rêve ici, et pour aider à rendre son pays grand et puissant par son travail honnête sur les chantiers. Et voilà ta photographie intime, faite sans appareil. Tu la trouves exacte, j'espère. Tu parles comme Messie Settembrini. Et ma fièvre, d'où vient-elle? La fièvre de mon corps, et le battement de mon cœur harassé, et le frissonnement de mes membres. C'est le contraire d'un incident, car n'est rien d'autre. Il suo viso smorto, con le labbra tremanti, si chinò più vicino a quello di lei. Rien d'autre que mon amour pour toi. Oui, cet amour qui m'a saisi à l'instant où mes yeux t'ont vu, ou plutôt que j'ai reconnu quand j'étais reconnu toi. Et c'est lui, évidemment, qui m'a mené à cet endroit. Thank you. Castorp batteva i denti. Mentre fantasticava, aveva estratto un piede di sotto alla poltrona scricchiolante e spingendolo avanti toccava già il pavimento con l'altro ginocchio, di modo che era dunque inginocchiato accanto a lei, a capochino, e fremeva tutto. «Je t'aime», balbettò. «Je t'aime de tout temps, car tu es la toi de ma vie, mon rêve, mon sort, mon envie, mon éternel désir». «Allons, allons», disse lei, «si te précepteur te voyait». Ma lui scosse la testa disperato, il viso rivolto al tappeto, e rispose: «Je m'en ficherai, je m'en fiche de tous ces carducci et de la République éloquente et du progrès humain dans le temps, car je t'aime». Lei gli carezzò dolcemente i capelli corti sulla nuca. «Un petit bourgeois», disse, «joli bourgeois, la petite tache humide. Et c'est vrai que tu m'aimes tant?» E infiammato dal contatto di lei, ora su entrambe le ginocchia, la testa reclinata, continuò a dire a occhi chiusi: «Oh, l'amour, tu sais, le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un, car le corps, c'est la maladie et la volupté, et c'est lui qui fait la mort. Oui, ils sont charnels tous deux, l'amour et la mort, et voilà leur terreur, leur grande magie. Mais la mort, tu comprends, c'est d'une part une chose malfamée, impudent, qui fait rougir des hontes, et d'autre part c'est un puissant, très éternel et très majestueuse, beaucoup plus haut que la vie, rien, gagnant de la monnaie et farcissant sa pince, beaucoup plus vénérable que les progrès qui bavardent par le temps, parce qu'elle est l'histoire et la noblesse et la piété et l'éternel et le sacré qui nous fait tirer les chapeaux et marcher sur la pointe des pieds. Or, de même, le corps, lui aussi, et l'amour du corps sont une affaire indécente et fâcheuse, et le corps rougit et pâlit à sa surface par frayeur et honte lui-même. Oui, mon Dieu, laisse-moi sentir l'odeur de la peau de ta rotule sous laquelle l'ingénieuse capsule articulaire sécrète son huile glissante. Laisse-moi toucher de votre bande et ma bouche l'artéria fémoralis qui bat au front de ta cuisse et qui se divise plus bas à les des artères du tibia. Laisse-moi ressentir l'exhalation de tes pores et ta tête enduvée, image humaine d'eau et d'albumine destinée pour l'anatomie du tombeau. Et laisse-moi périr mes lèvres aux tiennes. Non aprì gli occhi quando ebbe finito di parlare. Restò com'era, la testa arrovesciata, le braccia tese davanti a sé, con la matitina d'argento fra le dita, inginocchiato, tremebondo, vacillante. Lei disse: «Tu es un affaire un galant, qui s'est sollicité d'une manière profonde à l'allemand». E gli mise in testa il berretto di carta. «Adieu, mon prince carnaval, vous aurez une mauvaise ligne de fièvre ce soir, je vous le prédis». Così dicendo si alzò, scivolando dalla sedia, camminò quasi slittando sul tappeto fino alla porta, indugiò sulla soglia e, voltasi a metà con un braccio nudo alzato, la mano appoggiata allo stipite, mormorò al di sopra della spalla: «N'oubliez pas de me rendre mon crayon». E uscì. Thank you. Sei settimane passarono dalla sera in cui Castorp aveva conosciuto di persona Claudia Chauchat e poi era ritornato nella propria camera molto più tardi che il sollecito Joachim nella sua. Sei settimane dal giorno successivo che aveva visto la partenza della Chauchat. Partenza per il momento, partenza provvisoria per il Daghestan, laggiù a Oriente, oltre il Caucaso. Che fosse una partenza provvisoria, soltanto una partenza per il momento, e la Chauchat avesse intenzione di ritornare, non si sapeva quando, che però un giorno desiderasse o forse anche dovesse ritornare, di ciò egli aveva avuto assicurazioni, dirette e orali, non già nel riferito dialogo in lingua straniera, ma in seguito, nel tempo rimasto da parte nostra senza parole, durante il quale abbiamo interrotto il flusso, legato al tempo, della nostra narrazione, e lasciato che esso, il tempo puro, imperasse. In ogni caso, il giovane aveva ricevuto quelle assicurazioni e confortanti promesse prima di ritornare al numero 34, poiché il giorno dopo non aveva più scambiato una parola con la Chauchat. L'aveva appena vista due volte da lontano. Alla colazione di mezzogiorno, quando in gonna di panno blu e giacca di lana bianca, sbattendo la porta, era andata ancora una volta a tavola col suo passo grazioso e strisciante, mentre a lui il cuore balzava in gola e soltanto la stretta sorveglianza della signorina Engelhardt lo aveva trattenuto dal coprirsi il viso. E poi alle 3 del pomeriggio, alla partenza, alla quale egli non aveva direttamente assistito, limitandosi invece a guardare da una finestra del corridoio che dava sulla rampa di accesso. La scena si era svolta come Castorp l'aveva già vista svolgersi alcune volte durante il suo soggiorno. La slitta o la carrozza si fermava sulla rampa. Il conducente e il domestico vi legavano i bagagli. Davanti all'ingresso erano raccolti gli ospiti del sanatorio, amici di colui che, guarito o no, per vivere o per morire, se ne ritornava al piano, o soltanto desiderosi di marinare la cura a sdraio per provare l'emozione dell'avvenimento. Arrivava un signore in abito da passeggio, addetto all'amministrazione, talvolta persino i dottori, e poi veniva il partente, raggiante di solito, salutava benevolmente i curiosi che lo circondavano e non partivano, agitatissimo sul momento, a causa dell'avventura. Questa volta era uscita la signora Chauchat, sorridente, un braccio carico di fiori, in un lungo, ruvido soprabito da viaggio, guarnito di pelliccia, con un gran cappello, accompagnata dal signor Bouligin, il suo concavo connazionale che viaggiava un tratto insieme con lei. Anche lei pareva agitata e lieta, come era sempre il partente, non fosse altro per il mutamento di vita, prescindendo dal fatto che viaggiasse col consenso dei medici o interrompesse il soggiorno soltanto per tedio disperato, a proprio rischio e con la coscienza poco pulita. Lei aveva le guance arrossate, parlava di continuo, probabilmente in russo, mentre le avvolgevano una coperta di pelo intorno alle ginocchia. Non erano convenuti soltanto i compaesani e commensali della signora Chauchat, ma anche molti altri ospiti. Con un gagliardo sorriso il dottor Krokowski aveva mostrato i denti gialli. Altri fiori erano arrivati. La prozia aveva offerto, come diceva lei, confettura, cioè marmellata russa. C'erano anche la maestra, l'ospite di Mannheim, questi un po' discosto, con lo sguardo triste e i suoi occhi sofferenti alzati a guardare l'edificio, avevano scorto Castorp alla finestra del corridoio e cupi su di lui si erano soffermati. Il consigliere Behrens non si era fatto vedere. Evidentemente si era accomiatato dalla signora in altra privata occasione. Poi, tra le acclamazioni e i cenni di saluto degli astanti, i cavalli avevano puntato gli zoccoli e anche gli occhi obliqui della Chauchat, mentre il moto della slitta in avanti la spingeva all'indietro contro lo schienale imbottito, avevano scorso di volo sempre sorridendo, la facciata del Berghof e per una frazione di secondo si erano soffermati sul viso di Castorp. Il rimasto era rientrato pallido nella sua camera, sul suo balcone, per vedere di lì ancora una volta la slitta che tra gli squilli della sonagliera scendeva per la strada di Dorf. Si era poi abbandonato sulla sedia e aveva tratto dalla tasca interna della giacca il dono ricordo, il pegno, una sottile lastrina incorniciata, una lastra di vetro che bisognava tenere contro luce per vederci qualcosa, il ritratto interno di Claudia, che era senza volto, ma rivelava la tenera ossatura del suo busto, rivestita in un alone spettrale dalle morbide forme di carne, insieme con gli organi della cavità toracica. Ma un'ironica profezia di quella fine di carnevale si era avverata. Castorp aveva avuto un brutto attacco febbrile, un'improvvisa punta saliente che egli aveva segnato nella curva con una certa solennità e poi, dopo essere scesa leggermente, era proseguita come un altopiano con lievi ondulazioni, sempre sopra il consueto livello. Così fu che Castorp dovette trovarsi due volte la settimana, il mercoledì e il sabato, appena ritornato dalla passeggiata del mattino, laggiù, nel laboratorio, per l'iniezione. Ma qualche volta, essendo il consigliere di buon umore e non immalinconito dal tabacco, si svolgeva in occasione della puntura una breve conversazione che Castorp sapeva dirigere all'incirca nel modo seguente. «Ripenso sempre con piacere a quando si venne a prendere il caffè a casa sua, signor consigliere, l'anno scorso, in autunno, occasionalmente». Proprio ieri, o forse un po' più addietro, l'ho rammentato a mio cugino. «Numero 7 Gafchi», disse Behrens, «il reperto più recente. Quel ragazzo non vuole, assolutamente non vuole, disintossicarsi. E dire che non mi ha mai tormentato e scocciato come ora. Dice che vuole andarsene a trascinare la sciabola, quel bambino. Mi viene a gridare la croce addosso per questi 5 trimestrucci». Come fosse stato qui ad ammazzare secula seculorum. Via vuole andare. O così, o cosà. Ultimamente, per esempio, già, Chi è partito recentemente? Una signora della tavola dei russi a modo, Madame Chauchat. Per il Daghestan è corsa voce. Poco prima della sua partenza l'ho conosciuta anche di persona. Ah, senti questa, replicò il consigliere, esattamente come aveva replicato quando Castorp, anteriormente alla prima visita, gli aveva comunicato che aveva anche un po' di febbre. E non disse altro. Proprio così, confermò Castorp. Secondo l'esperienza non è affatto facile quassù fare conoscenze, ma tra la signora Chauchat e me è avvenuto e si è combinato all'ultima ora. Così, conversando, ci siamo avvicinati. Ecco, eh? Domandò il consigliere abbassando la testa con l'espressione di chi aspetta un elogio e nella domanda comprende anche per sua esperienza la conferma della lode che attende. Penso che il mio francese sia stato un po' zoppo, scantonò Castorp. Non è certo il mio forte, ma al momento giusto le parole si trovano. E così ci siamo intesi abbastanza bene. Lo credo, eh? Ripeté il consigliere invitandolo a rispondere e per parte sua aggiunse. Benino, vero? Abbottonando il colletto della camicia, Castorp se ne stava a gambe larghe, coi gomiti alzati, e guardava il soffitto. In fondo, niente di nuovo, continuò. Ai bagni avviene che due persone o due famiglie vivano settimane sotto lo stesso tetto a distanza. Un bel giorno fanno conoscenza, si piacciono a vicenda e nello stesso tempo salta fuori che una delle due parti è sulle mosse di partire. È un rammarico che subentra spesso, immagino. E allora si vorrebbe almeno mantenere i contatti nella vita, ricevere notizie reciproche, cioè per posta. La signora Chauchat, invece... Quella non vuole, vero? Rise il consigliere Bonario. No, non ne ha voluto sapere. Non scrive nemmeno a lei qualche volta? Dai luoghi dove si trova? Dio guardi! Esclamò Berens. Non le passa neanche per la mente. Prima di tutto per pigrizia. E poi come dovrebbe scrivere? Io non leggo il russo. Sì, qualche volta, in caso di estrema necessità, bestemmio qualche frase. Ma non so leggere una parola. E neppure lei, vero? Beh, il francese e anche il tedesco moderno, quella gattina, li miagola con molta grazia. Ma scriverli si troverebbe nel più grave impaccio. L'ortografia, caro amico, che vuole. Dobbiamo rassegnarci. Ogni tanto ritorna, di quando in quando. Questione di tecnica, di temperamento, come dicevamo. L'uno parte ogni tanto ed è sempre costretto a ritornare. L'altro rimane addirittura finché non ha più la necessità di ritornare. Suo cugino, se parte adesso, glielo dica pure. Non è da escludere che lei possa ancora assistere al suo solenne ritorno.